reportage. Padborg, tra Germania e Danimarca, nuovo confine d'Europa, di Raffaella Calandra. Danimarca. Dopo che gli agenti hanno bloccato a tutti le cinture di sicurezza sul pulmino, Azim, Fatima e i loro 6 figli salutano col segno di vittoria. Hanno superato anche gli ultimi controlli e stanno per entrare nella nebbia di Padborg e dentro la loro nuova vita in Danimarca. Lo fanno con i vestiti nuovi appena ricevuti dall'altra parte del confine dai volontari di Flensburg. Viele kommen in kurzen Hosen, in Sandalen, überhaupt nicht für das Wetter eingerichtet. Sie haben keine richtige Jacke, sie haben keine Mützen, sie haben keine Handschuhe, keine Schals. Giacche per la neve e scarpe al posto di pantaloni corti e sandali. È qui, in quest'ultimo comune a nord della Germania, che già si capisce chi potrà proseguire il viaggio e chi invece dovrà dirigere altrove la propria vita, ora che prima in Svezia, poi in Danimarca, sono stati reintrodotti i blocchi alla frontiera e dal 4 gennaio ogni giorno, in media, 15-20 persone sono costrette a tornare sui propri passi, racconta Heinz Nermer Jewenski in questa stazione dove circa 100.000 migranti sono passati negli ultimi mesi. Wenn hier Flüchtlinge ankommen, kriegen sie zuerst was zu essen. Quando i profughi arrivano, qui ricevono innanzitutto da mangiare e da bere. Verifichiamo che siano sani, altrimenti diamo loro medicinali e medici. Ci prendiamo cura dei bambini. Qui poi a quasi tutti diamo degli altri vestiti. Quasi tutti vogliono proseguire il loro viaggio verso Svezia, innanzitutto, e Norvegia. E in genere arrivano con i pantaloni corti e i sandali, nessuna sciarpa, nessun cappellino. Niente, insomma, di adeguato per la neve e il freddo che c'è qui. Fino a un mese fa, in grandissima quantità ne arrivavano diretti in Scandinavia. Ora non è più così facile raggiungerla, perché devono avere un pass. Devono essere in ordine con i documenti. E chi non li ha viene o respinto indietro dalla Danimarca o portato in prigione. E il più delle volte costoro restano in Germania alla fine. Ogni giorno circa 15-20 persone tornano indietro perché respinti o perché lo scelgono. Casomai non hanno trovato i familiari e fa troppo freddo. Capita anche questo. Quasi ogni ora i treni arrivano da sud e scaricano in questo estremo lembo settentrionale intere famiglie e quel che resta della loro prima vita stipata in sacchetti dell'IKEA come quelli di Azim e Fatima. Spesso neanche sanno di non essere ancora in Scandinavia quando scendono infreddoliti sulla banchina. Qui sono volontari come Daniela Weichert e interpreti che spesso sono ex profughi a spiegare loro dove si trovano e a cosa vanno incontro. I profughi che arrivano qui per lo più viaggiano da Amburgo a Flensburg e sono diretti in Scandinavia, per la maggior parte in Svezia. Ma ora è possibile entrare in Svezia solo con un visto speciale. E al momento succede che quando i viaggiatori entrano in territorio danese, a Padborg, vengono fermati dalla polizia che controlla i documenti a bordo. Se non sono a posto, vengono rispediti indietro in Germania. Per questo ora arrivano meno profughi, ma come si può vedere, comunque ne arrivano qui. Continuano a desiderare di raggiungere preferibilmente la Svezia, ma per la maggior parte il viaggio finisce qui. Quei migranti rispediti indietro dalla Danimarca vengono presi in consegna qui in stazione dalla polizia tedesca, che li porta nel centro di accoglienza di Neumünster. A qualcuno come Mohammad, 18 anni, iracheno, è capitato invece pure di finire in carcere una volta varcato il confine, ora tornato ben visibile. Il 6 gennaio volevo andare in Danimarca. Non sapevo dei controlli, non avevo il pass. E allora sono stato 3 giorni in prigione. 3 giorni in prigione solo perché non avevo i documenti che dicevano loro. Mi hanno chiesto se volessi restare lì, se volessi chiedere asilo. Ma io ormai da tempo vivo in Germania e ho detto no. Ma c'è anche chi di carcere se n'è fatto molto di più. È Hai stropicciato i foglietti di carta e sulle punte delle dita il destino di una famiglia in questi tempi di nuovi controlli alle frontiere danese e svedese. Da Flensburg, non appena il treno lascia il territorio tedesco, ecco gli agenti danesi salire a bordo. La sosta è più lunga del solito ed è per questo che a Berlino temevano un caos nei trasporti dopo il ritorno dei controlli. A tutti i passeggeri viene chiesto di mostrare biglietto e documenti soprattutto. Ad Azim, Fatima e a loro sei bimbi viene chiesto anche di scendere. Spiccano tra il ghiaccio e la nebbia di Padborg i loro vestiti che spuntano da buste strapiene. Controlliamo documenti e controlliamo tutti i loro bagagli per la nostra sicurezza. Verifichiamo passaporti, nel caso li abbiano, e impronte digitali. Chi vuole restare qua, chi fa e può fare domanda d'asilo in Danimarca può restare, gli altri no, sintetizza in modo sbrigativo uno dei poliziotti danesi dagli occhi di ghiaccio. Questa famiglia irachena è proprio qui, a Copenaghen, che vorrebbe ora vivere. I loro documenti sono a norma e per questo ora vengono caricati sul pulmino della polizia, diretto al primo centro d'accoglienza. Non sempre però le porte si aprono così e più spesso invece molti migranti percorrono a ritroso i pochi chilometri che separano Padborg a Flensburg, Germania. Qui ora bivaccano ragazzi afghani bloccati mentre cercavano di attraversare la Danimarca verso la Svezia. Come le tre famiglie, tuttora assistite dai volontari tedeschi dopo essere state respinte da Copenaghen. Storie che velocemente corrono nel passaparola di chi è in cammino, così chi arriva in quest'ultimo pezzo di Germania, come racconta Heliga, già profuga curda, ora assistente e traduttrice, per prima cosa si informa sull'ultima roulette russa che ancora li attende durante il viaggio. Chiedono sempre dei biglietti per viaggiare fino in Svezia. Io sono qui da 15 mesi in stazione per aiutare i profughi e ora posso dire che alcuni sanno dei blocchi e dei controlli alla frontiera danese. Altri invece dicono abbiamo soldi e vogliamo comunque provare ad andare in Danimarca, casomai in bus. Ma la Svezia, ormai lo sanno, è sempre più chiusa. Ora noi qui abbiamo tre famiglie che sono state respinte dalla Danimarca e le stiamo aiutando. Erano in treno e al momento del controllo, visto che non avevano il pass, di nuovo marcia indietro fin qui. In questi casi, alcuni rinunciano alla Svezia e fanno richiesta di asilo in Danimarca, altri invece tornano qua a Flensburg. Oda in Flensburg wieder zurück. Copenhagen. By train? Bus, taxi. Why? Control. Train, bus, control. Problemi con i documenti, prova a spiegare il più giovane, ma problemi, ci dice, ora pure in Germania. Cattiva gente, taglia corto, con riferimento alla caccia allo straniero iniziata dopo le molestie alle donne nella notte di Capodanno a Colonia. Loro e molti altri vogliono riprovare a passare dall'altra parte di una barriera tornata visibile con bus o auto di trafficanti, ci raccontano. Ma una cosa è certa, dal 4 gennaio, dal ripristino cioè dei controlli in Svezia e Danimarca, seguiti poi anche da Slovenia e Austria, che ha deciso una sospensione temporanea di Schengen, il flusso in questo tetto d'Europa è drasticamente calato. E questa è diventata la nuova porta stretta dell'Unione Europea. Il primo ad accorgersene è stato forse uno dei controllori del regionale Amburgo-Flensburg. Ora sono molti di meno i migranti. A settembre, nel momento di picco, un solo treno ne trasportava anche 300-400. Ora in media sono una trentina. E credo che questo sia dovuto soprattutto ai controlli, uniti ovviamente al freddo. Nonostante tutto, ogni giorno, su questi vagoni continuano a salire decine di migranti diretti ancora più a nord, con i loro 1000 sacchetti pieni di abiti e giocattoli e con le loro squadre di figli. Ogni giorno, decine di bambini da questi finestrini scoprono per la prima volta la neve e ridono di gioia, anche se spesso hanno freddo. Ma più forte resta la speranza di oltrepassare questa nuova porta stretta di Europa e ricominciare un'altra vita coi loro vestiti nuovi. Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.